autore, eccetera, e l'editrice di questo libro originalissimo, direi forse nuovissimo nella storia, che è appunto Giuseppe e Maria, la nostra storia d'amore. Autore Andrea Mardegar, dell'Opus Dei di Milano, acquerelli di Anna Maria Trevisan, edizioni Paoline. Ecco, siamo arrivati, adesso aspetta che prendo la pagina. Pagina 88. Pagina 88, l'amore che vince il timore. A te la parola. Bene, ecco, grazie Don Tino. Allora, sì, siamo arrivati a questo capitolo, capitolo 9 del libro, che è un capitolo un pochettino più breve rispetto agli altri, e tratta del dialogo tra Giuseppe e Maria, che raccontano il loro vissuto interiore e tra di loro, riguardo alla presentazione di Gesù al Tempio, e quindi che è un brano che noi ben conosciamo dal Vangelo di San Luca e che celebriamo nella liturgia. Prima parla San Giuseppe, mi pare, no? Comincia San Giuseppe, come sempre, tranne il primo capitolo è sempre Giuseppe, come dice anche il titolo, Giuseppe e Maria, è Giuseppe che parla per primo, no? Allora, il capitoletto che riguarda San Giuseppe, la sua testimonianza, la sua confidenza, si intitola Ci sorridevamo complici e felici. E Giuseppe dice così: Gesù era il primogenito e con Maria sapevamo bene quello che il Signore aveva detto a Mosè. Nel libro dell'Esodo c'è questa parola: consacrami ogni essere che esce per primo dal seno materno tra gli israeliti, e che il suo riscatto costava 5 sicli d'argento. Conoscevamo anche la tradizione secondo la quale le donne che avevano partorito dovevano considerarsi impure e quindi non adatte al culto, al rapporto con Dio. Ecco, questo è il concetto. Per esempio, mi ricordo bene che il Papa Benedetto XVI, nel libro Gesù di Nazareth, che ha 3 volumi, ecco, nel secondo volume, a un certo punto, commentando la parola di Gesù nell'ultima cena, che dice voi siete tutti puri, fa 4 paginette molto, molto chiare su il concetto di impurità dell'Antico Testamento, che è quello che io qui dico con parole semplici, cioè l'impurità era considerata una difficoltà nel rapporto con Dio, una impossibilità a rapportarsi con Dio, no? E quindi non adatti al culto, al rapporto con Dio. Dopo 40 giorni dovevano presentarsi per il rito della purificazione per le madri, portando al sacerdote un agnello di un anno, o un colombo, o una tortora in sacrificio per il peccato, o, se non ne avessero avuti i mezzi, 2 tortore o 2 colombi. Intanto ci ricordiamo che tutto quello che era il toccare il sangue o la presenza del sangue era considerata una impurità cultuale, no? Pur rispettando ogni cosa, dice Giuseppe, della legge del Signore, ci chiedevamo il senso di tutto ciò. Non comprendevamo come potesse essere impuro, cioè inadatto a Dio, l'amore dell'uomo e della donna, creato da Dio e voluto da Dio. E qui cita quel passo della Genesi all'inizio, secondo capitolo: per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno un'unica carne. E come potesse rendere impura una madre la nascita di un figlio, conseguenza della benedizione iniziale di Dio ai nostri progenitori: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, no? Per cui, ecco, sempre il libro della Genesi, io mi immagino che Giuseppe riflette e pensa che, ecco, il comando di unirsi alla propria moglie, il comando di procreare viene da Dio, e quindi lui si chiede: ma come è possibile che queste cose rendano impura una donna? Ciononostante, volevamo seguire la legge di Mosè, e sono senz'altro Maria e Giuseppe in questo molto, il Vangelo di San Luca li fa vedere proprio molto fedeli al compiere la legge. Ma nel caso unico di Maria, quel figlio nato era figlio dell'Altissimo, generato dallo Spirito Santo. come poteva lei essere resa impura, cioè incapace di entrare in contatto con Dio dalla gravidanza e dalla nascita del Figlio di Dio? Sono riflessioni di Giuseppe, no? E quindi interviene Maria che parla con lui. Giuseppe, mi dice Maria, sono d'accordo con te, ma non possiamo svelare a nessuno questo nostro segreto. Sarà il Signore a dirci quando farlo. Nel frattempo dobbiamo adempiere ogni giustizia. Aveva ragione, dice Giuseppe, come sempre. Decidemmo insieme di portare il sacrificio dei poveri per la purificazione della madre al Tempio di Gerusalemme. Ecco, io in varie parti di questo libro metto in evidenza qualcosa che indubbiamente nello scriverlo, nel pensarci, nel riflettere, mi ha colpito, soprattutto in quest'ultimo libro, cioè il fatto che Giuseppe e Maria, che può essere utile per noi, no? Sono portatori della buona novella, proprio della buona notizia per eccellenza, no? Tant'è vero che noi addirittura chiameremo Vangelo, cioè Evangelion, cioè in greco è proprio la buona notizia, la buona novella, proprio definisce proprio questi quattro libri che sono il Vangelo. Loro hanno questa buona notizia, cioè che Dio è venuto a trovarci, che è venuto a mettere la sua tenda tra noi, è venuto a farsi uomo, però loro sono consapevoli che non la possono dire perché è troppo grande, no? Cioè hanno bisogno di pazienza, di aspettare, e aspettare il momento che Dio, in cui Dio deciderà. Questo ci può aiutare molto perché indubbiamente in quest'epoca, anche proprio recentemente, qualche settimana fa, la Capenitenzeria ha fatto un documento che dice, mi raccomando, ecco, per richiamare la Chiesa sulla importanza della riservatezza, senz'altro il sacerdote in sigillo della confessione che è inviolabile, ma anche quello della direzione spirituale, cioè tutto ciò che è cosiddetto foro interno, cioè è importante la capacità, ma io penso anche un genitore che riceve la confidenza di un figlio, un amico che riceve la confidenza di un'amica, di un amico, ecco, tutto questo dobbiamo imparare da Giuseppe e da Maria, questa capacità di discrezione, di riservatezza, questa capacità di tenere per sé anche cose così belle come può essere la grande notizia della incarnazione, per aspettare il momento opportuno per rivelarla. Ecco, allora, tornando quindi a quello che dice Giuseppe su quello che hanno deciso loro di portare il figlio al Tempio di Gerusalemme, continua così Giuseppe. Insieme pensammo di dare un senso diverso a quel rito della presentazione dicendo a Dio, ecco tuo figlio, ce lo hai donato, lo hai affidato, ma è tuo, te lo offriamo. Tutti crederanno che noi lo riscattiamo, come se ci fosse un peccato da cui purificarlo, ma noi sappiamo che è tuo da sempre, consacrato a te per la sua stessa origine. Andammo con questi sentimenti e con la trepidazione di chi custodisce un segreto con Dio e ha paura che qualche malintenzionato lo possa scoprire o è preoccupato di non stare facendo la cosa giusta agli occhi di Dio. Si comprende che a volte anche nelle persone giuste e sante come Giuseppe e come Maria cercano di comprendere qual è la cosa migliore davanti a Dio, anche con questo figlio che è il figlio di Dio, e quindi decidono, consultandosi a vicenda, qual è la cosa migliore, ma può rimanere un po' di incertezza nel loro cuore. Il nostro amore saldava i nostri cuori e ci dava una grande forza. Ecco, in questo io metto in evidenza come anche quando ci può essere un po' di incertezza che cos'è davvero quello che il Signore vuole da noi, ecco, l'amore tra Giuseppe e Maria gli dà una grande forza. Nel viaggio, sempre con un solo asinello, ci sorridevamo complici e felici, e il bambino in braccio a lei o a me esprimeva con la sua serenità beata l'amore che vince il timore. Ecco, no? E io in questa frase c'è un po' una risonanza del contenuto della prima lettera di San Giovanni, no? Dove dice che chi ha timore non è perfetto nella carità, no? e che invece l'amore vince la paura. Arrivati al Tempio fummo sorpresi dell'apparire dell'anziano Simeone che, prendendo in braccio il bambino, disse. Io all'inizio di questo libro ho accennato che il fatto, quella tradizione antica che c'è nella Chiesa, che Maria sia stata un po' di tempo da bambina nel Tempio di Gerusalemme, può dare ragione di questa conoscenza, no, che ha con Simeone e poi anche con la profetessa Anna. Simeone dice: ora puoi lasciare il Signore che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Ancora una volta, dice Giuseppe, la rassicurazione ci arrivava da altre persone. Dio ci lasciava pensare e decidere, nell'incertezza e nel timore, e poi ci mandava qualcuno a darci prova del suo amore per sempre. Ecco, a me piace mettere in evidenza questo modo di agire di Dio che si vede nella storia di Maria e di Giuseppe, perché è un modo di agire di Dio che dà molta importanza alla nostra libertà, no? Cioè si fida molto di Giuseppe, di Maria, della loro saggezza, della loro rettitudine e del loro anche buon senso, no? Quindi si fida, gli lascia agire e poi dopo gli rassicura che è bene quello che hanno deciso. Qualcuno ci ripeteva in modi diversi, con parole nuove, in questo caso è Simeone, il profeta Simeone, quello che l'angelo ci aveva detto nell'annuncio della nostra chiamata: non temere Maria, non temere Giuseppe. Quando tornavamo a guardare Gesù insieme, ascoltavamo nel nostro cuore ancora quelle parole: Giuseppe e Maria, non abbiate paura. Mi ricordo che una volta stavo celebrando una messa con il cardinale Ravadi, dove lui va in vacanza sopra del maggio, no? In estate, e lui ha fatto un'omelia e qui ha raccontato quello che poi ho letto altre volte, no? Che nella Bibbia questo incoraggiamento a non aver timore, a non aver paura, in tutta la Bibbia pare che siano 365 volte, no? Questo incoraggiamento a non aver timore, a non aver paura, direttamente da parte di Dio o da parte degli altri. Per ogni giorno dell'anno. Esattamente, quindi l'applicazione è bellissima, e ogni giorno abbiamo un incoraggiamento da parte della Bibbia a non avere paura. Bene, a questo punto io faccio parlare Maria. Il suo capitoletto si intitola «Gli stringevo forte la mano destra». Poi subito dopo si vede questo un bel acquerello di Anna Maria Trevisan, dove c'è Maria con in braccio il bambino e Simeone che si affaccia, ecco, a prendere in braccio. Gli stringevo forte la mano destra. Avremmo portato Gesù al Tempio come primogenito, dice Maria, ma sentivo che Giuseppe viveva un contrasto interiore per il rito della mia purificazione. Lo vedeva come un'umiliazione senza motivo. Ma io gli dicevo: diamo un senso anche a questo se pensiamo che Gesù viene, come ti disse l'angelo in sogno, a salvare il suo popolo dai suoi peccati. Noi possiamo portare al Tempio tutti i peccati del nostro popolo e lui li purificherà. Ecco, io mi ricordo che qui posso accennare brevemente, per chi avesse desiderio di approfondire questo tema, io l'ho messo in termini semplici, narrativi, e uno dei libri che ho letto e consultato per finire questo mio libro su Giuseppe Maria è il famoso testo di René Laurentin, grande mariologa, grande esperto di Maria, sui Vangeli dell'infanzia, no? Che ha anche una prefazione di Cardinal Ratzinger. E appunto in questo libro, quando parla della presentazione di Gesù al Tempio, approfondisce, io non mi soffermo qua perché è una questione un po' complessa dal punto di vista anche lessicale, così la discussione su queste parole di Simeone, no? E allora e del Vangelo stesso di Luca. Per cui di fatto una possibile interpretazione è che appunto ci sia quest'idea, no? Che Gesù è presentato al Tempio già pensando come alla salvezza di tutto il popolo, no? di tutta la città, di tutta Gerusalemme, di tutto il popolo di Israele. Maria continua così: ti ricordi le parole di Malachia? Egli è come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei lavandai. Siederà per fondere e purificare l'argento. Purificherà i figli di Levi e affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'offerta secondo giustizia. E Maria dice a Giuseppe: se si riferisse al nostro Gesù, cominciamo noi a fare di lui un'offerta gradita al Signore, no? Quindi in qualche modo Maria aiuta Giuseppe a capire, è vero, insomma, questo bambino è il figlio dell'Altissimo, che insomma, non c'è nessun peccato in lui, non c'è, insomma, è un po' fuori luogo forse questa presentazione, ma se noi lo presentiamo al Signore perché è un inizio, noi conosciamo tutto il Vangelo, anche poi l'offerta che il Signore fa di sé nella croce, no? E sulla croce e per redimere tutti i peccati di tutti, e comincia lì, no? Comincia a offrirsi al Signore già nel Tempio, e Maria è un po' è come se intuisse, no? Nel mio racconto, intuisse questa grandezza, no? di questo gesto, e loro seguendo la legge di Mosè, però in realtà è un gesto che va molto al di là come significato di quello che aveva per ogni primogenito del popolo di Israele, no? Così ci aiutavamo a vicenda a interpretare le parole del Signore. Questa è un'altra, come dire, caratteristica di questo dialogo tra Giuseppe e Maria, un po' lungo tutto il libro. Io gli faccio, sia Giuseppe che Maria ricordano le parole della Bibbia e si aiutano a vicenda a interpretarle, no? E così si sostengono e si aiutano. Questa è una cosa che in realtà anche i coniugi cristiani possono e forse devono fare, perché il Signore sicuramente gli dà grazia per interpretare le parole di Dio, le parole di Dio, e applicata alla loro esistenza, alla loro vita, no? Cioè loro stessi possono, i coniugi che parla, che dialogano tra di loro su quello che gli sta accadendo nella vita, hanno la grazia del Signore per capire alcune parole della Scrittura che illuminano la loro esistenza, quello che gli sta accadendo in quel momento, no? E quindi si possono aiutare la vicenda, ovviamente avendo un po' di esperienza delle parole del Signore, leggendole e meditandole nella loro preghiera e nella liturgia. Maria dice: mi piaceva curare gli animali e allevai i due colombi che avremmo portato per l'offerta. Per me erano un simbolo del nostro matrimonio. Sapevo che sono animali monogami che stanno insieme tutta la vita. E così davo un altro significato a quel nostro pellegrinaggio al Tempio, offrire di nuovo al Signore il mio matrimonio con Giuseppe. E mentre Giuseppe porgeva i colombi al sacerdote, mi stringevo forte la mano destra con la mia destra. Così, con il figlio, presentavamo anche il nostro amore a Dio e lo ringraziavamo per questo dono immenso. Quindi è molto bello che Maria e Giuseppe offrono il figlio, però che in qualche modo portano anche se stessi, no? Uniscono anche un po' loro stessi, il loro amore, lo offrono al Signore, ecco, sull'altare del Tempio idealmente. Poi Simeone mi chiese di prendere in braccio il bambino e ci benedisse. Compresi che quel nostro presentarlo al Signore aveva un significato ancora più grande. E qui, ecco, mentre prima Giuseppe ha citato la prima parte delle parole di Simeone, e qui Maria cita la seconda parte che la riguarda più da vicino, e quella famosa spada che trafiggerà l'anima, no? Quindi Maria ricorda le parole di Simeone, Luca 2, 34, 35, ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Ecco, quindi vedete, sono parole densissime e anche per molti aspetti misteriose. E io qui faccio dire da Maria come lei reagisce di fronte a queste parole così forti, no? Giuseppe mi vide impallidire, mi sentii venire meno, mi appoggiai a lui che mi strinse tra le braccia. Ecco, questo è evidentemente una mia fantasia, al contempo mi fa piacere anche, in fondo, è un tratto comune di questo libro, forse anche del libro precedente che ho scritto su Maria, che è di far vedere la normalità di Maria, no? Che questo tratto che è anche molto caro a Papa Francesco e dirà molto caro anche a San José María Escrivano, che parlava della normalità di Maria, per cui ecco, Maria è molto forte, una donna sicuramente molto salda, anche se è molto giovane, in questo momento è una giovane madre. E però io posso intravedere che appunto di fronte a una rivelazione così forte si sia sentita un po' vacillare, ecco, no? Però e li vedo come, ecco, Giuseppe la appoggia, no? Cioè la sostiene. Lungo tutta la storia di Giuseppe e di Maria che io tratteggio in questo libro, si vede come a volte Giuseppe che sostiene Maria, altre volte Maria che sostiene Giuseppe. Mi pare che questa sia la normalità della vita degli sposi che si vogliono bene, e sia una cosa molto bella, a volte anche proprio una convivenza che fa in modo che quando uno dei due coniugi, possiamo anche dire degli amici, no? È un po' più debole, l'altro è più forte e ha la grazia di Dio per sostenerlo, e così via. Quindi è molto bello che ci sia questo sostegno reciproco in momenti diversi nella vita, e non bisogna meravigliarsi che sia così, anche bello che sia così, che sia molto reciproco, no? Cioè che anche se noi sappiamo che evidentemente Maria ha dei doni straordinari che superano quelli di Giuseppe, perlomeno per quello che la Chiesa insegna, allo stesso tempo dal punto di vista umano si sostengono la vicenda, che anche Giuseppe ha grandissime grazie inimmaginabili per noi, perché sono le grazie di Dio che aiutano quest'uomo ad essere lo sposo della madre di Dio e il padre per tutto quello che è tutto l'aspetto, insomma, parte la generazione che quando dipendeva dallo Spirito Santo, tutto il resto con Giuseppe fa da padre al figlio dell'Altissimo, per cui indubbiamente aveva bisogno di fortissime e straordinarie grazie da parte di Dio per compiere quella missione, e parte di queste grazie sono la forza e la gioia anche di riuscire a sostenere Maria quando Maria aveva bisogno, e viceversa Maria sostiene Giuseppe quando Giuseppe ne ha bisogno. Poi il Signore fece in modo che incontrassi Anna, che non vedevo dai miei anni trascorsi nel Tempio. Mi riconobbe subito e, ricordando tante cose che ci eravamo confidate, e vi ricordate, io immagino che Maria bambina, ancora o fanciulla, ha avuto l'illuminazione, mi sono immaginato io così, per questa donarsi al Signore nella virginità, e l'aveva confidato a questa Anna, e quindi era stata anche incoraggiata da lei, e allora lei, ecco, in qualche modo conosce tante cose dell'intimità di Maria, e quindi comprende, ecco, comprese immediatamente la grandezza di quello che mi era accaduto. Quindi in qualche modo Anna collega, no? Cioè i doni che Maria aveva ricevuto da bambina con quello che è successo dopo, è stata scelta da Dio per essere quella vergine che partorirà, no? Quella, la madre del figlio di Dio. E parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. È bello la conclusione. Mi rassicurò con le sue parole e le sue carezze, e io mi ripresi un po' dal turbamento per le parole di Simeone, che avrei poi meditato per tutta la vita. Bellissimo. Ecco. Ottima conclusione, caro Don Andrea, anche questo capitolo sulla presentazione al Tempio è stato meraviglioso. Non sappiamo come ringraziarti di cuore. Forse in parte queste parole potrebbero anche rivolgersi a Giuseppe, no? Anche a te una spada trafiggerà l'anima, almeno per... Sicuramente, hai ragione. Sì, certo, anche senz'altro, anche Giuseppe partecipa di questa poi sofferenza di Maria che dura un po' tutta la vita, no? E anche se poi lui probabilmente, secondo quello che è la tradizione, e poi ne parleremo negli ultimi capitoli, non ha visto la passione del Signore perché è probabilmente morto prima, ma comunque tutta la sofferenza, pensiamo alla perdita di Gesù al Tempio, insomma, certo, quando aveva 10 anni. Certo, allora Don Andrea, una bella benedizione, e la prossima volta non ci sarà perché sarà il 25 del mese, una bella benedizione per tutti noi, perché sempre più sappiamo capire questo amore fra Giuseppe e Maria, ma possiamo anche viverlo, soprattutto gli sposi. Senz'altro. Va bene, grazie Dontino e anche a tutti gli ascoltatori della loro attenzione. Allora io vi do la benedizione di Dio Padre, di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, per intercessione di Giuseppe e di Maria, del loro amore, rimanga su di voi e con voi, cioè scenda su di voi e con voi rimanga sempre, sulle vostre famiglie, sui vostri figli. Grazie, amen. E allora a presto, ci risentiamo presto, fra 2 settimane. Sì. Continua a pregare per noi, ricordarci nella Santa Messa. Grazie anche voi. Grazie a te, Don Andrea, grazie, grazie. Perché soffrir, perché morir? Oh buon Gesù, confido in te, che posti crocifisso come